Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Andiamo subito ad ascoltare i temi del nostro sommario di oggi. Una coppia da cui dipende la nostra salute. Parliamo dei reni. Manager in crisi, istruzioni per l'uso. Socializza e starai meglio. Reni, oggi ci occupiamo di loro, meno popolari del cuore, del fegato, ancora meno del cervello. I reni lavorano senza che noi ci curiamo di loro. Forse non sappiamo esattamente neppure dove si trovino né che cosa facciano di preciso. Sono organi di filtro, abbiamo sentito dire, ma cosa filtrano? Insomma, di loro abbiamo poche e confuse informazioni. Ci viene difficile, forse per questo, associare a loro la parola prevenzione. Se riflettiamo del cuore, conosciamo i nemici, la stessa cosa potremmo dire del fegato e del cervello. Riusciamo anche a cogliere e a riconoscere eventuali segnali di malessere e del nostro i reni? Per questo abbiamo deciso di farli diventare protagonisti della puntata di oggi. Approfittate quindi, se volete semplicemente raccogliere informazioni e conoscere le regole di prevenzione, se avete un valore sospetto, se un vostro familiare ha una malattia renale o è in dialisi o è ancora in attesa di trapianto. La puntata di oggi, come sempre, la costruiremo proprio partendo dalle vostre domande, che potete sin ora fare all'800 24 00 24, inviarci messaggi al 349 238 6666. In linea con noi abbiamo il professor Remuzzi. Buongiorno professore. Buongiorno. Coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo e direttore del Dipartimento Trapianti agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Professore, al mondo 500 milioni di persone hanno qualche forma di danno renale. Questo vuol dire che anche i reni si ammalano e lo fanno a loro modo. Sì, i reni si ammalano e il loro modo è che non ce ne si accorge tanto facilmente. I polmoni respirano, uno guarda una persona respirare, si accorge, il cuore batte, si sente il polso, si prova la pressione. I reni possono ammalarsi anche in modo gravissimo e uno non se ne accorge, perché man mano che si perde tessuto renale, quello che rimane diventa più grande e cerca di sostituire il tessuto che si è perso, e si va avanti così. Il rene ha una capacità di adattamento straordinaria. Professore, quindi meglio conoscere i fattori di rischio, i segnali da prendere in considerazione, anche se molto sfumati. Ma prima di rispondere alle chiamate dei nostri ascoltatori, a cui rinnovo l'invito di contattare il nostro numero verde, e quindi prima di parlare di sintomi, diagnosi, terapia delle malattie renali, una domanda molto banale: ma a cosa servono i reni? Tante volte abbiamo sentito dire che sono organi di filtro, ma cosa filtrano? Se poi filtrano? Ci chiediamo alla maggior parte delle persone a cosa servono i reni, ci sentiremo dire per produrre urina. Sì. Ma il rene fa tante altre cose. Noi siamo fatti per 3/4 di acqua e le nostre cellule sono immerse in un fluido che deve avere una composizione molto precisa. La funzione principale del rene è proprio quella di mantenere costanti le caratteristiche del liquido che avvolge tutte le nostre cellule. Basta un po' di potassio in più o un po' di sodio in meno nel fluido che bagna le cellule perché il cuore si fermi o il cervello ne soffra. Non succede quasi mai, perché c'è il rene che tra l'altro ci dà la libertà di eccedere. È per via del rene che possiamo prendere più di quanto abbiamo bisogno, per esempio di acqua e sali. Il rene elimina esattamente tutto quello che non ci serve e lo fa minuto per minuto, senza che noi ce ne accorgiamo, con una precisione straordinaria. Se il rene di colpo smette di funzionare, si muore in pochi giorni. E questo succede perché i prodotti di scarto che produciamo ogni giorno sono tossici. Professore, allora, per sensibilizzare l'attenzione di confronti di questa bella coppia di lavoratori instancabili, possiamo, credo, lavorare su due fronti. Il primo, definire il profilo della persona a rischio. Il secondo, magari utilizzare un indicatore che funzioni come una specie di cartina tornasole dello stato di salute e funzionamento dei nostri reni. Allora, è d'accordo, professore? Potrebbe certo, essere una certo, strada? Benissimo, è proprio così. Allora, andiamo al profilo. Chi rischia? Rischia chi ha qualche persona nella famiglia con una malattia renale, rischia chi ha la pressione alta, chi ha il diabete, chi è sovrappeso, chi fuma. In tanti quindi rischiamo. Beh, abbastanza. Senta professore, veniamo invece all'indicatore, non so se questo termine è corretto, però mi viene in mente l'urina, i reni producono sì, l'urina. Ai dottori del rene il fonendoscopio, quell'aggeggio che si appoggia sul torace. Serve poco. Serve a poco, forse non serve neanche. moltissimo agli altri. Se uno parla con un ammalato e non ha capito cos'ha, ha perso il 90% di probabilità di capire, e se lo guarda e non ha capito ancora, ha perso il 95% di possibilità di capire. Noi non abbiamo tanti segni fisici, noi nefrologi, ma abbiamo una cosa straordinaria che non ha nessun altro, anzi attraverso questa cosa noi possiamo diagnosticare anche le altre malattie, per esempio quelle del cuore. Noi abbiamo l'urina, e possiamo guardare l'urina, lo facevano anche nei tempi antichi, capivano se uno aveva il diabete dal fatto che l'urina era dolce. L'urina è prodotta dai reni e riflette tutto quello che succede nel rene e nell'organismo. Quali sono però i segnali sospetti della nostra urina? La quantità delle emissioni, il colore, il sangue nelle urine? Beh, certo, la quantità dell'urina è molto importante. Urinare troppo o troppo poco è certamente un problema, a meno che uno non sia in condizioni estreme. Sì. Se uno beve tantissimo è giusto urinare tanto, se uno non beve è giusto che urini poco. Ma urinare troppo o troppo poco in condizioni di idratazione normale è certamente spia di un problema. E poi il colore dell'urina, per esempio basta una pochissima quantità di globuli rossi che si trovano nell'urina perché l'urina assume un colore diverso, più scuro, e questo è per la presenza di sangue. Anche proteine, queste noi non le vediamo. Si può accorgere del fatto che l'urina diventa un po' schiumosa, allora quella è la presenza di proteine, ma anche una piccola presenza di proteine può essere indice di danno e addirittura può predire che si ammalerà il cuore. Questo si trova con un esame di laboratorio molto semplice. Quindi abbiamo certamente attraverso l'urina la possibilità di conoscere che qualcosa non va non solo nel rene ma addirittura nell'intero organismo, e poi si tratterà di vedere col medico di stabilire che cosa. Arrivano già i messaggi al 349-238-6666. Professor Remuzzi, ci scrive Alfredo da Bologna, ma i reni si ammalano insieme o prima uno e poi l'altro? La maggior parte delle malattie colpisce tutti e due i reni, per esempio le malattie ereditarie, le conseguenze del diabete, dell'ipertensione, del sovrappeso, del fumo. Il fumo fa male a tutti e due i reni. Tutte le malattie immunologiche, quelle che chiamiamo glomerulonefriti, certe forme di malattie per cui si nasce con la tendenza a formare nel rene delle grandi cisti che poi portano a insufficienza renale. Ecco, queste colpiscono tutti e due i reni. Le infezioni possono colpire un rene solo, i calcoli possono colpire un rene solo, i tumori colpiscono quasi sempre un rene solo. Ci scrive Anna Maria, quanta acqua bisogna bere per far lavorare bene i reni? 2 litri per me sono troppi. Se bevo poco, cosa succede? I reni s'arrangiano. Uno può bere tanto o poco, e se il rene funziona normalmente eliminerà il liquido in eccesso o tratterrà quello che serve trattenere per mantenere normale il volume del liquido fuori dalle cellule se uno beve troppo poco. Questo però non comporta, scusate ma mi sono distratto, è entrato qualcuno nella mia stanza a portarmi un foglio. Magari un esame urine, professor Remuzzi. È un esame urine di un ammalato. Esatto. Vede, ecco. Questo però questo non comporta che noi dobbiamo modificare, che dobbiamo bere troppo poco, perché il rene ha bisogno comunque, per eliminare quello che noi dobbiamo eliminare, di un certo quantitativo di urina. Ma quant'è? Quindi bere troppo poco è comunque sbagliato, non c'è una regola, non è che si possa dire quanto si deve bere. Noi abbiamo un sistema meraviglioso che si chiama senso della sete, sì. È il cervello che ci dice quanto noi dobbiamo bere, quindi seguire il senso della sete funziona benissimo. Quando uno ha sete deve bere, non si applica agli anziani, perché gli anziani la perdono, col vero? Tempo a perdere il senso della sete. Aldo da Firenze, i diuretici che fanno fare tanta pipì non rischiano di sottoporre ad un lavoro straordinario i reni e quindi di affaticarli? Ci sono dei rischi ad assumere questi farmaci per lunghi periodi? Professor Remuzzi. Beh, il problema dei diuretici è quello di tutti i farmaci. Noi non dobbiamo prendere un farmaco se non serve. I diuretici sono dei farmaci importantissimi per chi ha certe malattie renali, ma non tutte, perché in certe malattie renali i diuretici sono addirittura controindicati, oppure in chi ha uno scompenso cardiaco. I diuretici fanno parte di una categoria di farmaci che hanno cambiato radicalmente la storia della medicina. Però certamente se noi diamo un diuretico a una persona normale, questo comporterà una disidratazione anche grave, si può persino morire di diuretico se uno ha la funzione renale normale, perché il diuretico di una persona normale è il rene. Carla ci scrive: che relazione c'è tra ritenzione idrica e malfunzionamento dei reni? Professor Remuzzi, spesso noi diciamo siamo gonfi, anche persone che non le donne, noi donne che abbiamo problemi di cellulite, spesso si dice è un problema di ritenzione idrica. Allora vuol dire che i reni sono affaticati, non funzionano bene? C'è una possibile relazione tra questi due problemi? C'è una ritenzione idrica che dipende dal cuore, quando il cuore funziona male. C'è una ritenzione idrica che dipende dal malfunzionamento dei reni, c'è una ritenzione idrica che è in presenza di reni perfettamente normali, che succede soprattutto alle donne, si chiama edema idiopatico, edema ciclico, è legato a tante volte a dei disturbi psicologici. Queste donne prendono diuretici per ridurre questo gonfiore, dal momento che la causa non è una causa renale, non è neanche una causa cardiaca. Questo peggiora paradossalmente i diuretici, la ritenzione di acqua. La ritenzione bisogna idrica. Assolutamente non prendere diuretici in condizione di funzione del cuore e del rene normale. Questo edema ciclico idiopatico va trattato in un modo completamente diverso da persone competenti. Tutti i nefrologi sanno riconoscere molto bene questa malattia, lo sanno fare anche gli endocrinologi, un po' meno. Lei lo dice un po' meno questo... perché lei è nefrologo, professore. No, ma è così, gli endocrinologi poi mandano queste malate a noi perché anche loro pensano che sia insufficienza renale, perlomeno molti. Naturalmente non bisogna generalizzare, ci sono endocrinologi che conoscono perfettamente questa patologia. Però bisogna fare molta attenzione, perché queste poi sono malate che hanno qualche problema psicologico e tendono a voler risolvere sempre con dei farmaci. È anche difficile per il dottore, perché queste sono malate che se uno non gli dà dei farmaci poi girano da un'altra e da un'altra e da un'altra, fino a quando trovano quello che gli dà il farmaco, e questo veramente crea dei grossi problemi, o può creare dei grossi problemi, e crea poi un circolo vizioso, per cui è difficile anche poi stabilire se le alterazioni, per esempio, degli elettroliti, del sodio e del potassio dipendono da una malattia o dipendono dal fatto che queste donne prendono farmaci. Dico donne perché nella grande maggioranza dei casi si tratta di donne. Quindi, professor Remuzzi, per chiamare all'appello i nostri ascoltatori a intervenire, per occuparsi dei loro reni, se avete un familiare affetto da una malattia renale, se siete diabetici, sovrappeso, se siete fumatori, se qualcosa della vostra urina non vi convince, il numero delle menzioni, il colore, la presenza di sangue nelle feci, se avete fatto di recente degli esami, delle indagini e qualche valore non vi torna, 800 24 00 24, a nostra disposizione il professor Remuzzi sino alle ore 12 per occuparci di questa bella coppia. Una mela al giorno. Che sia solo una paura piuttosto che una realtà, la perdita di lavoro sembra assillare molte persone, soprattutto in questo clima di incertezza e preoccupazione generale. Ne parliamo oggi col dottor Ballerini, medico, scrittore, psicanalista freudiano e autore del libro 120 giorni che ti cambiano la vita, strategie e riflessioni per futuri ex manager, Rizzoli Editori. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottor Ballerini, di questi 120 giorni di cui lei parla nel suo libro, 60, i primi 60, sono giorni in cui il manager, che in realtà potrebbe essere già silurato, non sa nulla e non sa neanche cogliere dei segnali che potrebbero fargli venire un sospetto. È proprio così. È proprio così, in questi primi 60 giorni del manager nel libro, ma attenzione a un manager, ma potrebbe fare anche qualsiasi altra professione, l'idea è che qualcuno ha già deciso che è ridondante, quindi non serve più, ma lui continua ad andare avanti e ignora certi segnali che gli arrivano. Ignora certi segnali che gli arrivano, in particolare, ad esempio, non si accorge di certi segnali che in primis il suo stesso corpo, il suo organismo gli trasmette. Ad esempio? A volte noi non ci accorgiamo che c'è qualcosa che sta per accadere a livello cosciente, ma è come se dei segnali arrivassero e quindi il nostro corpo ce lo dice in un modo diverso. Ad esempio l'insonnia, il faticare ad addormentarsi e risvegliarsi presto, certi capricci intestinali, mal di stomaco, mal di gestione, insomma un senso di malessere che uno non si sa come spiegare. Può darsi che il corpo ci dica qualche cosa. E poi cosa fa questo manager o cosa fa questo lavoratore? Magari proprio nel momento in cui inizia a percepire che c'è qualcosa a rischio, inizia a lavorare troppo. Per cui Sì, io dico sempre che la sua carta d'identità diventa il bigliettino da visita, si dimentica della vita personale, giù la testa, lavora 14-15 ore al giorno, ma purtroppo questo non serve per migliorare, non serve per garantirsi il posto di lavoro e anzi renderà più difficile dopo, quando il nostro ruolo su cui noi ci siamo così immedesimati di colpo inizia a cadere e crolla. Questi sono i primi 60 giorni, segnali sospetti, arriviamo al giorno zero, una volta che ci capita davvero un licenziamento, siamo travolti. Il giorno zero è un giorno difficilissimo e diversi sono i sentimenti. Da prima ci nasce la rabbia, nel testo faccio dire al protagonista che vorrebbe avere i muscoli di Bruce Willis, no? Nel senso vorrebbe scatenarsi, perché il sentimento della rabbia è assolutamente giustificato. Accanto a quella della rabbia però c'è un sentimento che è quello del sentirsi svuotati. Di colpo tutto quello che esisteva non esiste più e si usano espressioni popolari come mi manca la terra sotto i piedi, mi crolla il mondo addosso, e descrivono bene questo tipo di sentimenti. Accanto quindi all'essere arrabbiati e al sentirsi poi svuotati, inesorabilmente arriva una prospettiva nera, nel senso il soggetto non vede più il futuro, insomma sembra di essere assolutamente statuto. Comprensibile, dottor Ballerini. È assolutamente comprensibile, questa è una reazione naturale. L'importante è che ad esempio questo non veder futuro, sentirsi risucchiato in un buco nero da cui non ce la farà più ad uscire, l'importante è che questa sia un'esperienza temporanea, ma che il soggetto ritrovi poi l'energia per rilanciarsi, perché sennò poi arriviamo nella depressione e iniziano i guai seri, che sono anche superiori all'aver perso il posto di lavoro, che significa non ritrovarne un altro. Allora si riparte, il giorno dopo. Allora si riparte, il giorno dopo bisogna reagire, quindi non bisogna mai negare le reazioni che abbiamo detto prima, perché è umano averle ed è giusto che uno passi un periodo così di difficoltà. La questione è che bisogna superarlo e ci sono alcuni piccoli suggerimenti. Il primo è tenere sulla cura di sé. Tenere sulla cura di sé vuol dire proprio banale, gli uomini farsi la barba, pettinati, ben vestiti, donna un filo di trucco, vestiti bene. Il concetto è: nessuno che è sciatto può trovare di nuovo lavoro. E tenere sulla cura di sé permette anche di continuare a riconoscere il proprio valore, cioè non mi hanno ucciso se mi hanno licenziato, io valgo ancora, devo trovare qualcuno che lo riconosca. L'altra questione è proprio questo, far cadere la presunzione, io dico. Non è che l'altro, quando vado a fare un colloquio di lavoro, deve sapere già che io sono bravo, non è che l'altro deve sapere già che io ho tanta esperienza, che quindi ce la farò. Insomma, bisogna avere l'umiltà di ricominciare, l'umiltà di rimettersi in gioco e accettare la sfida di dover di nuovo dimostrare il proprio valore. Non è automatico, quindi mai affrontare un colloquio di lavoro con una certa presunzione, solo perché facevo certe cose l'altro deve saperlo automaticamente. E la parte più importante, io credo, sia invece riconoscere i veri amici, perché in questa situazione uno è meglio che non sia solo, per cui il coinvolgimento della famiglia, che tante volte è difficile, perché è difficile a volte comunicare, è paradossale, proprio nel momento in cui servirebbe di più parlare, ci chiudiamo e non parliamo più. Ma bisogna riattivare la rete con i familiari e riattivare la rete degli amici, identificare quelli che non sono lì a compatirci, a dire oh poverino, ma quelli che magari ci fanno vedere delle nuove idee, ci incoraggiano, ci aiutano a rilanciarci. In questo modo, se noi saremo curati, se non siamo presuntuosi e ci mettiamo con umiltà a ricominciare e se abbiamo qualcuno che ci sostiene, sarà certamente più facile affrontare i più 30 giorni o più 60 o quanti saranno in cui dobbiamo recuperare un lavoro. Allora, dottor Ballerini, pensiamo positivo e ricordo il titolo del libro 120 giorni che ti cambiano la vita, Rizzoli Editore, Luigi Ballerini. Grazie a lei per essere intervenuto, buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Oggi in linea con noi abbiamo il professor Remuzzi, pronto a rispondere a tutte le vostre domande relative alla salute dei reni, al loro malfunzionamento. Nel caso 824 0024 abbiamo subito Stefania che ci chiama dalla provincia di Roma. Stefania, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, salve. Volevo fare una domanda, se era possibile, al professore. Sì. Avendo avuto io una mamma che è andata in dialisi, anche se in tarda età, per reni policistici, Volevo sapere intanto quanto è il rischio di ereditare questo problema. Sì. Perché io quando ho fatto questa domanda ai medici in cura di mia madre è sempre stata una risposta abbastanza vaga. Sì. Io faccio un'ecografia l'anno per controllare lo stato sì. dei reni e ho due bambini di 10 e di 8 anni a cui vorrei iniziare poi a fare dei controlli anche a loro, perché appunto so che comunque il rischio... La familiarità conta. Stefania, grazie per la domanda che giro subito al professor Remuzzi. Professore. Sì, Stefania quanti anni ha? Stefania quanti anni ha? Deve essere giovane Stefania. 38. E non ha cisti adesso nell'ecografia? No. Quindi è molto improbabile che abbia ereditato la malattia. Le probabilità teoriche sono del 50%, ma se uno non ha cisti, non ha veramente nessuna cisti a 38 anni, è molto probabile che abbia ereditato dal papà, che non aveva il gene per la malattia policistica. E quindi può essere una persona perfettamente sana, in questo caso non trasmetterà la malattia ai figli. Quindi un messaggio assolutamente rassicurante per Stefania. Professor Remuzzi, arrivano tantissimi messaggi sul colore, sulla quantità e sull'odore anche della pipì. Un cattivo odore delle urine può essere indice di qualche problema? Io ne leggo uno, ma ne saranno arrivate sull'odore almeno una ventina. Possiamo rispondere brevemente prima di andare ai mercati? Sì, è generalmente indice di infezione. Mm. Anche l'insufficienza renale può modificare l'odore delle urine. Quando però uno se ne accorge in modo così evidente da dirlo a noi, sì. vuol dire che in generale questa è un'espressione di un'infezione delle vie urinarie. E noi siamo tornati insieme. Il tema di oggi sono i nostri reni. Stiamo imparando molte cose di loro che sono importanti, sono un po' i registri della nostra salute. Abbiamo imparato che devono essere protetti, controllati, perché non mandano dei segnali chiari anche quando sono affaticati e malati, insomma tengono duro. Ma professor Remuzzi, c'è anche una buona notizia, perché mi sembra che qualcosa sia cambiato, anzi molto. Sappiamo che il denominatore comune nella maggior parte delle malattie renali è la progressione. In pratica il rene che ha subito un danno perde progressivamente la sua funzione, sino a che si deve intervenire poi con la dialisi. Ma alla luce dei nuovi studi e di ricerche cliniche, oggi questa progressione si può arrestare o rallentare, quindi questa è un po' una buona notizia. Questa è una buonissima notizia per tutta il gruppo di ammalati che hanno malattie renali associate a perdita di proteine con le urine, e questo include le malattie che sono associate all'ipertensione, al diabete e al sovrappeso, oltre a tutte le malattie immunologiche, tutte quelle che chiamiamo glomerulonefriti. Esistono dei farmaci che sono stati inventati per abbassare la pressione, fanno parte della categoria degli ACE inibitori. Sì. Questi farmaci sono capaci di rallentare la progressione del danno renale e addirittura di invertire la tendenza. Dopo molti anni di trattamento con questi farmaci, la funzione renale comincia progressivamente a migliorare. Noi abbiamo il sospetto, per certi studi che abbiamo fatto negli animali e per quello che vediamo nell'uomo, che il rene incomincia a riparare. C'è un'attività del rene che contiene certe cellule che fanno parte di questa grande categoria delle cellule staminali. Mm. E queste pian pianino, dopo tanti anni di trattamento con questi farmaci, incominciano a riparare il rene. Che questo succeda negli animali è certo, perché l'abbiamo documentato. Che sia così anche nell'uomo è verosimile. E in questo modo la progressione del danno renale si può bloccare ed evitare la dialisi. E questo succede persino nei diabetici. Però bisogna partire molto presto. In media servono 15 anni perché il rene di un diabetico cominci a perdere proteine. Ecco, bisogna intervenire quando la perdita di proteine è molto modesta, perché se uno arriva tardi, quando certo. si perdono tante proteine, allora è difficile. O addirittura nel diabetico si può, e noi l'abbiamo visto, nel diabetico che ha la pressione alta, l'abbiamo visto in uno studio che è molto conosciuto, si può intervenire quando il rene è ancora normale, quando il diabete non l'ha ancora danneggiato, per proteggerlo. Molte domande arrivano via SMS riguardo alla relazione tra calcolosi renali e funzione dei nostri reni, oppure delle infezioni delle vie urinarie. Ma prima vorrei dare la parola ad Alba Rosa, che ci aspetta da Verona. 824 0024. Alba Rosa, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore. La mia domanda è questa: sono ipertesa con un leggero scompenso cardiaco. Per cui oltre alle compresse per l'ipertensione sono sono in terapia con dei diuretici, sì, sensi due al giorno, mattina e pomeriggio. Mm. La domanda primaria è questa: possono i diuretici presi quotidianamente danneggiare le reni? E in seconda battuta, si può eventualmente sostituire parte del diuretico con un ACE inibitore? Grazie Alba Rosa. Professor Remuzzi, insomma, questi diuretici creano un po' di perplessità negli ascoltatori di Radio 24. No, in questo caso però il diuretico è assolutamente indicato, anzi, sì, dal momento che c'è uno scompenso cardiaco o una tendenza allo scompenso cardiaco, il diuretico è il farmaco che protegge il cuore dallo scompenso. Il diuretico si può associare all'ACE inibitore se il medico ritiene di doverlo fare, e insieme diuretico e ACE inibitore proteggono il cuore e proteggono il rene. È una coppia di farmaci molto importante in determinate condizioni. Non è certamente una terapia da fare per chi ha un rene normale e un cuore normale, l'abbiamo detto. Uno dei problemi più diffusi, professor Remuzzi, è la calcolosi renale. Può comportare danni di tipo cronico al tessuto renale? In che modo? Chi sa di avere, ad esempio, calcoli renali, che li ha avuti, si sa, sono molto dolorosi, tra l'altro. Forse proprio la prima volta che capitano, uno si accorge dove sono esattamente, dove sono i reni, che dolore possono provocare. Ma chi ha avuto dei calcoli renali deve fare dei controlli particolari, fare una dieta, può fare prevenzione? Ecco, il rene, abbiamo detto, del rene non ci accorgiamo, fa, sì, tutto questo straordinario lavoro e noi non sappiamo nemmeno che ci sia, salvo non avere una colica renale, che è di fatto un'esperienza dolorosissima, che riguarda 2 persone su 100 in Italia. Questi calcoli sono sassi sostanzialmente, piccoli, talvolta piccolissimi, che si formano nelle urine. I calcoli ce l'hanno avuto persone anche molto famose, come Napoleone per esempio. Sono fatti di sali minerali o di sostanze organiche che noi normalmente abbiamo nelle urine, però sono in forma disciolta, in certe particolari circostanze si solidificano e hanno delle dimensioni molto variabili. L'80% di questi calcoli sono fatti di calcio associato ad ossalato, nel 5-10% si tratta invece di acido urico. Il calcio può essere anche il calcolo può essere anche più raramente formato da magnesio oppure ammonio e fosfato, e poi ci sono calcoli rari formati di cistina. È opportunissimo fare degli accertamenti che comprendono esami di laboratorio sul sangue e sulle urine ed esami radiologici, perché questo può mettere in luce delle alterazioni del metabolismo, cioè uno assorbe troppo calcio con gli alimenti o ne elimina troppo con le urine, e tutte queste cose si possono correggere molto bene con dei farmaci, oppure si può mettere in evidenza la presenza di infezioni che anche favoriscono la formazione dei calcoli. La cosa da fare per chi ha i calcoli è quasi sempre quella di bere molto, qui sì che bisogna bere molto, in modo da mantenere la quantità di urine intorno ai 2 litri al giorno. Tra l'altro i calcoli si formano alle 3 di notte, quindi la cosa importante è bere molto alla sera prima di addormentarsi, così uno si sveglia per urinare, e questa è un'ulteriore occasione per prendere un paio di bicchieri d'acqua. Senta, professore, lei dice i calcoli si formano alle 3 di notte, quindi meglio bere prima di andare a dormire. Alcuni messaggi chiedono, alcuni dicono, l'acqua bevuta a digiuno è più benefica per i reni che non quella bevuta a pasto. Ha un fondamento questa? No, l'acqua è acqua. È acqua comunque, vero? C'è indicazione a bere tanto, come per una persona che ha i calcoli è giusto bere tanta acqua, e va bene berla mentre uno mangia oppure dopo, è la stessa cosa. È interessante mantenere le urine diluite anche di notte, proprio perché durante la notte le urine si concentrano e quindi queste sostanze che normalmente sono disciolte tendono ad aggregarsi tra loro e a precipitare. Una cosa importante da fare per chi ha la tendenza a formare calcoli, questo si applica a quasi tutti i calcoli, non è tanto ridurre la quantità di calcio come si è sempre pensato, ma ridurre la quantità di proteine e di sali nell'alimentazione, quindi non salare troppo pietanze, gli alimenti, e evitare cibi conservati che contengono tantissimo sale. Mario ci chiama dalla provincia di Imperia. Buongiorno Mario. Buongiorno dottoressa Carbone, buongiorno a lei, al dottor Remuzzi e a tutti gli ascoltatori. Senta, io chiedo questo, come diceva il professor Remuzzi, io mi baso sulla mia sensazione, cioè non ho sete quindi non bevo. Però il problema è che io vado a urinare un mucchio di volte pur non bevendo. Ora dico, magari è un problema di prostata, però so che quando lavoravamo insieme, sono un artigiano, dicevo 5 a 0, cioè io andavo 5 volte, mio amico mai. Senta Mario, giriamo la domanda al professor Remuzzi. 5-0, professor Remuzzi, dice Mario. Non urina nonostante, no? Che relazione c'è tra la quantità? Urina tanto nonostante beva poco. Quanti anni ha il signor Mario? Mario, 52 anni. Non ho capito. 52. 52. Allora, 52, a 52 anni una persona che urina tanto può avere una instabilità della vescica. La vescica è un organo molto sensibile. Certe volte quando una persona è agitata e preoccupata, qualcuno ha il colon che si dice irritabile. Altri hanno la vescica che ha lo stesso problema. E allora questa instabilità della vescica porta a urinare tanto anche se uno beve poco. In realtà urina spesso e poco e quindi tante volte, ma la quantità di urina non è quella che aumenta. Oppure può esserci una malattia della prostata a 52 anni. E ci può anche essere, io non penso sia il caso del signor Mario, una malattia renale cronica che comporta la necessità di urinare spesso. Questo si riferisce soprattutto alle infezioni. Quando c'è un'infezione è facile che uno abbia il desiderio di urinare molto spesso. Nella cistite, per esempio, si urina spesso. Spesso e anche con dolore. Sente, quindi il nostro Mario dalla provincia di Imperia, che cosa può fare per venire a capo del suo problema? Tante possono essere le cause che stanno dietro a questo sintomo. Io penso che possa essere un'instabilità della vescica e quindi può sentire un urologo, il quale gli dice anche la questione della prostata, e io farei un piccolo esame delle urine e del sangue. Sì. L'esame del sangue ci dice della funzione dei reni. Il rene, se funziona perfettamente, escludiamo che ci sia una malattia renale cronica. Basta misurare la creatinina nel sangue e vedere nei risultati degli esami di laboratorio che sia nel range normale, che per una persona dell'età del signor Mario, non so quanto pesa e quanto è alto, ma potrebbe andare da 0,6 mg per decilitro a 1,3, questo è il valore della normale. Creatinina. E prima di continuare a parlare dei nostri reni, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop potete ricevere a casa il libro dal titolo Agopuntura dalla A alla Z, introduzione alla medicina cinese. Per partecipare all'iniziativa dovete mandare un'email all'indirizzo esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, indicate naturalmente i vostri dati, il numero di telefono compreso. Il libro arriva a casa al primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta. E vi anticipo che proprio domani noi parleremo di agopuntura. In collaborazione con IBS.it. Abbiamo in linea, che ci aspetta da Bologna, Gianni. Buongiorno Gianni. Gianni? Gianni da Bologna, non lo sento. Sì? Non mi sente proprio? Ah no, Gianni, la sento forte e chiaro adesso. Pensavo buongiorno. Fosse andato altrove. Buongiorno. Buongiorno. Io ho avuto un problema di vie urinare che mi ha portato in ospedale 3 giorni con la febbre a 39, 39 e mezzo. Aveva male Gianni? Parecchio, parecchio. Però non ai reni. Dove aveva male? Avevo male alla vescica perché mi bruciava quando urinavo. E dopo con antibiotici mi sono messo a posto. Solo devo sapere dal professore, dato che mio padre ha avuto dei problemi ai reni, mi conviene fare qualche esame e quale esame? Gianni, mi dice anche l'età, perché vedo che il professor Remuzzi la chiede. 47 anni, professor Remuzzi, per Gianni, con una familiarità. E con questo problema che l'ha portato addirittura in ospedale, no? Sì, in realtà le infezioni delle vie urinarie, questa è un'infezione delle vie urinarie, sono un disturbo molto comune e sono generalmente confinate alle porzioni finali del tratto urinario, le vescica, uretra e prostata. In generale sono disturbi benigni. La descrizione di questo caso sembra la descrizione di una cistite, un'infezione della vescica che si manifesta con grande bruciore, continuo bisogno di urinare, talvolta le urine contengono anche sangue visibile a occhio nudo, si cura con gli antibiotici. Ne soffrono più le donne che gli uomini hanno più spesso prostatiti. In generale il germe che è implicato si chiama Escherichia coli e si sconfigge facilmente con la terapia antibiotica. Ma i reni soffrono? I reni possono soffrire quando queste infezioni risalgono lungo il tratto urinario e si localizzano ai reni. E come si fa a sapere? Quello si vede perché Intanto c'è dolore in sede renale e la cosa non si risolve nel giro di pochi giorni, come è nel caso del nostro ascoltatore che ha fatto una terapia antibiotica e la cosa si è risolta. La malattia del papà potrebbe essere una malattia diversa, però tutte le volte che c'è un'infezione delle vie urinarie, soprattutto quando questa si ripete, particolarmente negli uomini, è interessante andare a vedere che non ci possa essere qualche anomalia anatomica. Può esserci una condizione di reflusso oppure un'ostruzione dovuta a un calcolo che provoca un ristagno di urina nelle vie urinarie. Queste cose vanno viste, quindi il nostro ascoltatore potrebbe tra qualche tempo, quando è guarito bene, fare una ecografia del rene e di nuovo un esame del sangue e delle urine. Sono esami molto semplici che ci danno un'idea perfetta di come funzionano i reni. Abbiamo Ida, ci chiama dalla provincia di Bergamo. Ida, buongiorno. Buona giornata a tutti, grazie per avermi richiamato. Premetto che faccio controlli sia del sangue che delle urine una volta all'anno. Sì. E quest'anno invece mi è capitato a marzo di fare il primo controllo e risultare delle macchie e con anche cristalli di ossalato di calcio. La dottoressa mi rifà fare l'esame a distanza di 6 mesi, sì. Risultano ancora macchie, sono poche. Decide di farmi fare l'ecografia ai reni. Sì. E ai reni non risulta nulla di particolare. Meno male. Non evidenziano il patologico. Però cosa faccio? Convivo con queste macchie nelle urine o vado oltre a fare altre indagini? Grazie Ida, bella domanda. Professor Remuzzi, abbiamo poi Silvia che ci aspetta dalla provincia di Lucca. Presenza di sangue nelle urine, che si fa? Certe volte prima di diventare un vero e proprio sasso, il calcolo si aggrega in forma di sabbiolina, allora questo spiega che non si vede nella ecografia, ma può irritare un pochino la parete delle vie urinarie, sfregare un pochino, e questo si traduce in presenza di una piccola quantità di sangue nelle urine. Bisogna vedere come sono questi globuli rossi, quindi la prima cosa da fare è dare uno sguardo ai globuli rossi. Questi globuli rossi possono essere belli, perfetti, rotondi, e questo vuol dire che vengono dalle vie urinarie, oppure possono essere un po' alterati nella loro struttura e vuol dire che vengono dal rene. Quello che ci racconta la signora da un'area di presenza di un pochino di sabbia nel rene o nelle vie urinarie che può aver condizionato questa piccola quantità di globuli rossi. Convivere. No, è importante essere certi della ragione di questa perdita di sangue. Quando sappiamo la ragione poi la possiamo curare con, se fosse quell'ipotesi che io ho fatto, quella giusta, con il bere abbastanza e una determinata dieta, per esempio il citrato è importante per fare in modo che queste piccole sostanze organiche che ci sono nell'urina non aggreghino e non formino la sabbiolina, il problema si risolve. Abbiamo Silvia dalla provincia di Lucca e Paola da Milano e professor Remuzzi, abbiamo meno di 2 minuti, quindi chiedo alle mie amiche da casa di essere sintetiche con le domande in modo che il professor Remuzzi possa rispondere a entrambe. Silvia, vengo a lei. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sarò brevissima. Ascolti, io ho 36 anni, sì. Ho l'insufficienza renale da un paio di anni, sì. Con un valore di creatinina sull'1,90-2,10, sì. Che lo teniamo sotto controllo, sì. Con il cortisone da anni. Sì. La mia domanda è semplice, io devo aspettare un peggioramento per forza oppure posso sperare di poter continuare la mia vita serenamente, tranquillamente come faccio ora? Senza nessun tipo di problema, perché io vivo una vita normalissima. Normalissima. Grazie Silvia. Professor Remuzzi. Sono sicuro che la signora vive una vita normale. Abbiamo detto che finché non si perde una grande quantità di tessuto renale non si hanno disturbi. Non si può rispondere a questa domanda se non si sa qual è la malattia che sostiene questa insufficienza renale. È un'insufficienza renale abbastanza importante. Non è una cosa per cui ci si deve allarmare, se si rimanesse così può stare bene per tanto tempo, ma bisogna sapere qual è la malattia che sostiene questa insufficienza renale. Intanto io vi anticipo che il professor Remuzzi è contattabile a esserebenessere@radio24.it, le domande che sono arrivate sono davvero tante. Vado alla nostra ultima ascoltatrice, Paola da Milano, abbiamo veramente pochissimi secondi, Paola. Allora, sono la mamma di una ragazza di 27 anni affetta da LES, è in dialisi da 1 anno. Quanto può essere valido il trapianto per questa ragazza qua? Grazie dottore e arrivederci. Grazie Paola. Il trapianto negli ammalati con LES, che vuol dire lupus eritematoso sistemico, è una malattia immunologica, va meglio che il trapianto in ammalati di rene per altre malattie. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi e le invito a tornare a trovarci per parlare di trapianto. Dedicheremo proprio a questo argomento un'intera puntata. Professor Remuzzi, grazie, buona giornata, ma tanto noi, lei è di casa, ci sentiamo prestissimo. Ci sentiamo presto, grazie a voi, buona giornata. E buona giornata a chi ha ascoltato il nostro programma, l'appuntamento è per domani, non mancate dopo il GR delle 11. Buon lunedì da Nicoletta Carbone.